Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. L'estate scorsa il campionato italiano ha toccato con mano una condizione di crisi evidente. Movimenti di mercato in entrata ridotti quasi allo zero. Giovani campioni come Sanchez e Pastore che partono per campionati esteri. Fuori classe di livello mondiale come Samuel Eto'o che scelgono altre strade. Altri come Snyder che rimangono malvolentieri. E poi grandi nomi come Fabregas e Agüero corteggiati da club italiani che hanno scelto con ben poche esitazioni approdi in ben più solidi campionati stranieri. Speriamo che la Serie A, una volta il campionato più bello e importante del mondo, trovi la forza, le energie e le risorse per rialzarsi. Anche a livello di competizioni internazionali, i nostri club e la nazionale non se la passano molto bene. L'Inter Murignana del 2010 è stata una felice eccezione. Per il resto solo briciole e spesso nemmeno quelle. Oggi però, a Destini Incrociati, vogliamo raccontarvi una storia che confluisce proprio nell'ultimo grande momento di gloria collettiva del nostro calcio, sperando che possa essere di buon auspicio. Il trionfo mondiale del 2006 in Germania. Il batticuore sale. Ed è gol! È finita! È finita! È finita! Bravi. È finita! Il cielo è azzurro sopra Berlino. Siamo campioni del mondo! Campioni del mondo, Sandro. Bravissimi. Chi di voi, anche tra i non appassionati di calcio, non ricorda il rigore decisivo di Fabio Grosso, l'esplosione delle piazze italiane gremite di tifosi, la gioia incontenibile per le strade italiane. Un momento straordinario di gioia collettiva. Una nazionale compatta, granitica, fortissima, che in tutto il torneo incassa due sole reti. La prima, un autogol di Zaccardo contro gli Stati Uniti. La seconda in finale, su rigore trasformato da Zidane. Due degli uomini più importanti di quella spedizione, in quella serata di Berlino, si trovano all'epilogo di una vicenda straordinaria che ha visto i loro destini incrociarsi ripetutamente nel corso di due carriere fantastiche. Per raccontare la loro storia, andiamo indietro nel tempo e spostiamoci a Napoli, estate 1991. Stai lontana da sto cuore. Napoli è una città emotiva e viscerale, in grado di vivere di pancia qualsiasi avvenimento la riguardi. Il calcio è indubbiamente uno di quegli ambiti popolari in cui i napoletani hanno trovato le più grandi gioie e anche le più cocenti delusioni. Soprattutto le prime sono legate ai magici piedi di un uomo, anzi al suo magico piede sinistro, Diego Maradona. Diego è stato indiscutibilmente il re di Napoli. 5 luglio 1984, 17 marzo 1991. Sono le date del suo regno, dal primo esaltante ingresso al San Paolo, con 80.000 napoletani increduli che lo venerano mentre palleggia, ai controlli antidoping successivi a Napoli-Bari, stagione 1990-91, con Maradona positivo alla cocaina. Maradona viene sorteggiato per il controllo antidoping. Nelle sue urine vengono trovate tracce di cocaina. L'estate 1991, quindi, è quella del giorno dopo. È la prima stagione dopo la deposizione del re, che lascia un vuoto enorme e sorprendentemente ingombrante. Il Napoli deve ricostruire. Sulla panchina azzurra siede Claudio Ranieri. Sarà una stagione prevedibilmente difficile. Sono ancora tanti i grandi nomi del Napoli: Careca, Zola, Fonseca, Ciro Ferrara, Alemão. Nel ritiro precampionato, insieme a questi giocatori affermati, si mette in mostra un giovanissimo difensore neppure diciottenne, che il grande Ciro Ferrara sembra prendere sotto la sua ala. Il suo nome è Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro, 18 anni, insieme a Ferrara nella prima squadra, convocato da Ranieri, lui è titolare della primavera, è il secondo napoletano nella rosa del Napoli. Magari possiamo dire che il dopo Bruscolotti, il dopo Ferrara, potrà arrivare un domani anche il Cannavaro di Sainz. È un po' difficile, bisogna lavorare molto duro. nostro, speriamo che siano risultati. Naturalmente il nostro è un augurio. Grazie. Com'è andata l'esperienza in prima squadra? Un'esperienza fantastica per la gente, cioè per i giocatori che sono veramente fantastici. A chi sei di più del Napoli? Naturalmente i difensori. I difensori e poi tutti, cioè in particolare solo Ferrara, il senso blanco. A chi ti ispiri come difensore? Ma diciamo Ferrara. A te le domande, perché sei l'unico napoletano, abbiamo detto, in quelli che sono stati sei convocati in prima squadra dei Ranieri. Quindi un'esperienza utilissima per il futuro, sì. Infatti questa esperienza tra avere sperato di succedere nel futuro. Poi speriamo. Fabio Cannavaro è nato a Napoli il 13 settembre del 73 in una buona famiglia di Napoli, nel quartiere di Fuori Grotta. Io vengo da una famiglia normalissima, mio padre lavora in banca, ex calciatore. La mia passione deriva da lui, perché lui in casa portava la sua borsa, i suoi scarpini, ma io lo accompagnavo in ritiro. Fabio entra nella primavera del Napoli nel 1988 a soli 15 anni, una svolta nella sua giovane vita che gli apre opportunità straordinarie. Io vengo da una città molto difficile, per un giovane, una città dove ha 3.000 tentazioni in negativo, quindi avere una solida famiglia alle spalle con sani principi è importante per un giovane. Fine anni 80. A Napoli sono gli anni di Maradona. Fabio fa anche il raccattapalle al San Paolo nel periodo d'oro e sogna di poter indossare un giorno quella maglia in Serie A. Io ho iniziato a giocare in una scuola calcio che si chiamava Italside. Poi dopo ho avuto la fortuna di entrare nelle giovanili del Napoli all'età di 11 anni. Ho avuto la fortuna di fare anche racchetta palle allo stadio San Paolo. C'è una foto bellissima che testimonia questa emozione. 29 aprile 1990, stadio San Paolo. Il Napoli vince il suo secondo scudetto dell'era Maradona soffiandolo al Milan sul filo di lana. Lo stadio esplode, inizia la grande festa. La foto immortala Andrea Carnevale, attaccante partenopeo, intento a fare un festoso giro del campo. Sulla destra, con il volto imberbe illuminato di gioia, il braccio al cielo, c'è un Fabio Cannavaro sedicenne che testimonia spontaneamente tutto il suo amore per il Napoli, per la sua città, per il calcio. Un'immagine di grande festa per tutto il Napoli, un passo prima del baratro. Sino cu cazzo che vinciamo i mondiali, siamo una squadra furbissimi, fatta di gente drittissimi, e non budimo perdo. E fa figure e merda, perché noi siamo bravissimi e super pagatissimi, e se qualcuno ci ostacola ce lo diciamo alla cupola. La stagione successiva, 1990-91, è quella della detronizzazione di Maradona. A Napoli cambia tutto. Nel 1991-92, quindi, Cannavaro va in ritiro con la prima squadra guidata da Claudio Ranieri. Dopo la preparazione agostana, però, torna a giocare con la primavera. Durante la stagione 92-93 viene riaggregato al ritiro della prima squadra. Sulla panchina azzurra c'è ancora Ranieri. Una stagione difficilissima. Il Napoli inizia malissimo. Un disastro che culmina nella sonora batosta rimediata in casa contro il Milan, 5-1, con 5 gol di Marco Van Basten. E principalmente per Ferreino. Ancora un retropassaggio sbagliato di Mauro offre al Milan il quinto gol e a Marco Van Basten l'opportunità di consacrarsi capocannoniere. Ranieri viene esonerato alla decima giornata. Gli subentra Ottavio Bianchi. Il Napoli giungerà undicesimo. Il 7 marzo 1993, però, a 19 anni, Fabio Cannavaro fa il suo esordio in Serie A. Si gioca Napoli-Juventus. Dove esordito a 19 anni contro la Juve. Un Juve-Napoli 4-3. L'esordio dello scugnizzo Fabio non è memorabile. Il Napoli prende 4 gol, la partita finisce 4-3 con gol della vittoria bianconero siglato da Andreas Möller al 90. Per il resto della stagione Fabio non vede più il campo. Ottavio Bianchi lo considera un giocatore della primavera e proprio nella categoria giovanile Fabio giocherà fino a giugno. società vende una parte dei nomi storici, tra cui Antonio Careca e Gianfranco Zola, Massimo Crippa e Giovanni Galli. Arrivano tanti giovani. La società, il cui storico presidente è Corrado Ferlaino, naviga in cattive acque e lascia ad Erminio Gallo una società con un buco di 100 miliardi. Gallo Giocoforza decide di creare un cocktail di non facile gestione di esperienza e freschezza. Le chiavi di questa macchina tutta da rodare vengono affidate a un allenatore giovane e determinato che l'anno prima aveva fatto bene sulla panchina dell'Atalanta. È il nostro secondo personaggio di oggi. Il suo nome è Marcello Lippi. Il Paul Newman del calcio italiano. Questo è il soprannome che a Lippi viene affibbiato dai tifosi bergamaschi dell'Atalanta. Lippi è di Viareggio, dove è nato l'11 aprile del 1948. La Versilia rimarrà sempre la sua casa, il suo buon ritiro, il luogo dove rintanarsi per godersi le vittorie o leccarsi le ferite in ogni età della sua vita. Lippi, dopo la classica trafila nelle squadre della sua città, si avvicina al calcio che conta nelle giovanili della Sampdoria, nel ruolo di centrocampista, per trasformarsi in libero. L'ingresso nel calcio professionistico avviene in Serie C, in prestito al Savona. Dal 1970 al 1979 milita nella prima squadra della Sampdoria, dove colleziona 274 presenze e 5 gol. Gli ultimi anni della sua carriera di calciatore sono tra il 1979 e il 1982, nella Pistoiese prima e nella Lucchese in seguito. Appesi gli scarpini al chiodo, Lippi diventa immediatamente allenatore nelle giovanili della Sampdoria. Trafila di 3 anni, poi una serie di esperienze in squadre toscane, Pontedera, Siena, Carrarese, Pistoiese. Dopo l'esordio in Serie A con il Cesena e una brillante salvezza, il primo esonero e una breve parentesi alla Lucchese, Lippi giunge nel 1992 sulla panchina dell'Atalanta. È la sua grande vetrina. La squadra bergamasca mette in mostra un gioco aggressivo, rapido, corto, attentissimo alla fase difensiva, energico nelle ripartenze. La squadra arriva 7ª e a fine campionato giunge una chiamata da Napoli. La scommessa è rilanciare la squadra orfana dei campioni dell'era Maradona. Cannavaro e Lippi, per la prima volta insieme, quindi nel ritiro estivo del Napoli. Tra i due c'è subito grande intesa. Il mister decide senza esitazioni di portarlo definitivamente in prima squadra, determinando così l'attesa svolta della sua carriera. Insieme affrontano una stagione che non inizia certo in modo esaltante. Il Napoli perde le prime 2 gare contro la Sampdoria in casa e contro la Cremonese. La decisione di Lippi, fuori i senatori Nela, Pari e Policano, titolari giovani, tra cui ovviamente Fabio Cannavaro. La squadra decolla e macina punti e successi, tra cui uno straordinario 1-0 al Milan, campione d'Italia, siglato da un gol incredibile di Paolo Di Canio. Avanza nel centrocampo partenopeo Buso, passaggio su Fonseca, Buso guadagna un buon pallone a centrocampo, il lancio a cercare Di Canio che scatta bene, Di Canio entra nel rigore inseguito da Panucci, Di Canio una serie di finte, va verso il fondo, ancora Di Canio, non trova compagni di squadra qui appoggiare, poi si rete! Il Napoli agguanta l'ultima giornata il 6º posto e la zona UEFA, traguardo insperato a inizio stagione. Lippi diventa uno degli allenatori più quotati della Serie A, anche grazie all'insuperabile difesa in cui Ciro Ferrara è affiancato dallo straordinario Cannavaro, cui Lippi ha dato fiducia. Per il giovane difensore arriva la nazionale Under 21, nella quale diventa immediatamente titolare inamovibile. Gli azzurrini, allenati da Cesare Maldini, vincono il campionato europeo, una prima indicazione del fatto che Cannavaro, con la maglia dell'Italia, sarà in grado di togliersi tantissime soddisfazioni. A fine stagione Lippi parte, la vecchia signora chiama, la panchina della Juventus lo aspetta. Cannavaro resterà a Napoli ancora una stagione. I loro destini si incroceranno però ancora molto spesso. Se mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lasceremo più. Inganneremo il tempo ed il dolore, sia l'estate che l'inverno. E cambieremo il mondo ogni volta che vuoi. E fermeremo il mondo ogni volta che vuoi, yeah. Destini incrociati. Fabio Cannavaro e Marcello Lippi. Due destini, un incrocio. Estate 1993. Il mister approda sulla panchina del Napoli e decide che Fabio, non ancora ventenne, deve diventare titolare. Le due carriere decollano. Napoli sesto, Cannavaro protagonista e titolare anche nella nazionale Under 21 che vince l'Europeo. Lippi viene ingaggiato dalla Juventus. Era a Napoli, oggi era a Napoli, si vede che aveva avuto delle relazioni di un certo tipo e fu scelto da lui, me lo disse lui la prima volta, fra l'altro me lo disse anche simpaticamente perché lui mi disse ti devo parlare perché c'è una squadra con le maglie bianconere che potrebbe essere interessata. E io, avendo già lavorato nel Cesena, gli dissi qual è l'asco. Il ciclo di Marcello Lippi sulla panchina bianconera, che inizia nel 1994, è statistiche alla mano davvero impressionante. La premessa è che Lippi si ritrova per le mani una squadra straordinaria. In attacco la potenza di Vialli e Ravanelli, l'estro di Baggio e dell'esordiente Del Piero. Poi un centrocampo da corazzata. Deschamps, Conte, Di Livio, Paolo Sosa. A puntellare la difesa arriva proprio il compagno di Cannavaro al Napoli, Ciro Ferrara, che si aggiunge a Jürgen Köhler, Massimo Carrera, Moreno Torricelli, Luca Fusi. I bianconeri si rinnovano anche nella dirigenza, svecchiata e resa più moderna dall'arrivo di Luciano Moggi, Antonio Giraudo e dell'ex bomber Roberto Bettega. In campionato è il dominio assoluto e Lippi ci mette tanto del suo. Non avevo la sensazione che stava nascendo quello che poi dopo è nato, onestamente. Ce l'ho avuta strada facendo. Lippi presenta una squadra dalla mentalità incredibilmente compatta, affascinata dal suo carisma, caricata a mille, pronta a seguirlo in ogni battaglia. Sul piano atletico, Giampiero Ventrone, detto il Marine, per i suoi energici e controversi metodi, porta il team bianconero a un livello di forma fisica che rasenta l'eccellenza. La Juventus, dopo 9 anni, vince lo scudetto con 10 punti sulla Lazio. L'anno dopo avviene l'impensabile, l'impronosticabile. La Juve vende Roberto Baggio e acquista Vladimir Jugovic dalla Sampdoria. Diventa una squadra ancora più aggressiva e concreta, che pressa a tutto campo, corre per 90 minuti, non lascia spazio agli avversari. Il campionato 1995-1996 è combattutissimo. Il Milan si rinforza proprio con Roberto Baggio e con Georges Weah. Nella Lazio esplode Alessandro Nesta. Si rinforzano anche Roma, Fiorentina e Inter. Tra gli outsider si rinforza molto anche il Parma, fresco vincitore della Coppa UEFA, con il giovane Gigi Buffon, a cui si aggiunge proprio Fabio Cannavaro. Lo scudetto andrà al Milan. Quello che riesce a Lippi, però, è il capolavoro assoluto, la Coppa dei Campioni, la Champions League, che la Juve aveva vinto una sola volta nella cornice tragica dell'Eisel. L'allenatore toscano finalmente permette ai tifosi bianconeri di urlare tutta la gioia rimasta in gola 11 anni prima. Al gol di Ravanelli risponde il fuoriclasse finlandese Jari Litmanen. Finisce 1-1, si decide ai calci di rigore. Il primo tiro degli olandesi di Edgar Davids, poi futuro juventino, viene respinto da Peruzzi. Decretata dai calci di rigore, il primo a battere Davids. È stata scelta la porta sotto la curva nord, quella occupata cioè dai tifosi olandesi. Davids colloca il pallone a terra con estrema attenzione, Piervega sta osservando le operazioni, Peruzzi è al centro della porta, vediamo Piervega che si avvicina a Peruzzi per ricordargli quelle che sono le norme regolamentari per l'esecuzione e per la risposta del portiere ai calci di rigore. Davids parte dai 16 metri, rincorsa dunque abbastanza lunga da parte del giocatore dell'Ajax, parte, tocca con il sinistro, parata! Il tiro decisivo è sui piedi del neo acquisto Vladimir Jugovic. Jugovic, l'uomo incaricato di consegnare a Lippi e ai suoi compagni di squadra la Coppa dei Campioni 95-96. Rincorsa lunghissima, parte da fuori area. Jugovic, il contatto, la palla in rete! La Juventus è campione d'Europa! Esplode la gioia dei giocatori di Lippi che vanno ad abbracciare Peruzzi, grande protagonista della serie dei calci di rigore. Sweet. In 5 anni alla Juventus Lippi vince 3 scudetti, una Coppa dei Campioni, una Supercoppa Europea, una Coppa Intercontinentale, 2 Supercoppe Italiane. Questo bilancio già straordinario avrebbe potuto essere ancora più grande se si considera che la Juve raggiunge la finale di Champions League altre 2 volte, tutte consecutive, perdendo contro il Borussia Dortmund, peraltro imbottito di ex juventini, e il Real Madrid 1-0 ad Amsterdam con un gol in netto fuorigioco di Mijatovic. L'idilio juventino di Lippi si chiude nel 1999 in un modo un po' cruento. Il 6 febbraio, così dice la leggenda, l'allenatore arriva addirittura a fare a pugni con un suo giocatore, Didier Deschamps. Dopo 5 stagioni e mezzo, la squadra è logora, spezzettata, divisa in clan. Ne fa le spese l'allenatore, esonerato la sera dopo in seguito a una sconfitta con il Parma. Il Parma di Fabio Cannavaro. Cannavaro era passato al Parma nel 1995, acquistato a peso d'oro dal Cavalier Tanzi. Rimarrà con gli emiliani fino al 2002, diventando nel frattempo uno dei migliori difensori centrali italiani di sempre. Estate 1998. L'Italia gioca la fase finale dei Mondiali di Francia. Cesare Maldini lancia una giovane coppia di difensori centrali che aveva fatto la sua fortuna anche nell'Under 21. Sono Fabio Cannavaro e Alessandro Nesta. Nesta si fa male alla terza partita contro l'Austria. Cannavaro, che ha solo 24 anni, diventa leader ed entra nell'immaginario dei tifosi nei quarti di finale quando gli azzurri affrontano i boriosi padroni di casa. La Francia crede di avere già vinto. Attacca in massa fin dall'inizio. Il muro azzurro con il giovane Cannavaro in mezzo resiste. Il centravanti francese Givarche, dopo 40 minuti in cui Cannavaro non gli aveva mai fatto vedere il pallone, gli rifila una gomitata in faccia di frustrazione. L'arbitro, nonostante l'azzurro sia a terra, con uno zigomo rotto che richiede l'intervento dei medici, finge di non vedere e non espelle il transalpino, favorendo i padroni di casa. Il problema per Givarche è che Cannavaro, con una vistosa maschera che gli protegge il viso, rientra in campo e diventa il suo incubo, cancellandolo completamente dal campo, anticipandolo sempre, anche di testa, a costo di rischiare un nuovo impatto sullo zigomo rotto. La partita finisce 0-0. L'Italia perde ai rigori. Cannavaro diventa un eroe. Il fatto che mi feci male qui, zigomo destro, esalta un po' tutto. La gente mi vedeva in giro e mi diceva: oh, quello è Cannavaro, dove quello si è fatto male al mondiale. Ecco, quello penso che sia stato proprio il picco. Tra Cannavaro e la nazionale è grande amore. La situazione si ripete 2 anni dopo, europei olandesi. Sempre contro i padroni di casa, in semifinale questa volta, che giocano in 13. Il 12esimo uomo è il pubblico, il 13esimo l'arbitro. Gli azzurri rimangono in 10 dopo meno di mezz'ora e vengono assaltati. Cannavaro e il suo compagno di reparto Nesta forniscono una delle prestazioni più incredibili della loro carriera. Nel dopo partita, il centravanti olandese Kluivert userà un termine per descrivere quello che ha provato fronteggiando Cannavaro e Nesta per 120 minuti. L'inferno. Insomma, da quel primo incrocio nel ritiro estivo del Napoli, dopo quella prima stagione vissuta insieme, Lippi e Cannavaro, a cavallo del nuovo millennio, entrano tra le figure più importanti del nostro calcio. Ora il cerchio si deve chiudere. I loro destini hanno un andamento ciclico e un secondo incrocio, il più importante, li unirà definitivamente. Ti vengo a prendere perché non ho scelta, perché so vivere una sera per volta. Io ti vengo a prendere perché dove andiamo non importa. Ti voglio credere per come cammini, per le promesse che comunque mantieni. Io ti voglio credere per quello che chiedi e che non chiedi. Destini incrociati. Luglio 2004. Reduce dalla disfatta agli europei, la nazionale azzurra cambia il commissario tecnico. A Giovanni Trapattoni subentra Marcello Lippi. Lippi e Cannavaro si ritrovano a Coverciano per la terza partita degli azzurri nel cammino di qualificazione ai mondiali tedeschi del 2006. Cannavaro ha saltato le prime due per infortunio. Il 9 ottobre 2004 Lippi lo schiera titolare nella trasferta in Slovenia e gli assegna la fascia di capitano. La nazionale soffre principalmente di un problema. Ci sono tante stelle, non c'è un gruppo, le motivazioni non sono forti. È su questo che deve lavorare Lippi con il suo spirito da condottiero. Per riuscire nel suo intento, sceglie come capitano un altro leone come Fabio. Il progetto parte con un intoppo. La Slovenia ci batte 1-0. L'Italia riuscirà a qualificarsi senza troppi problemi. Al via dei mondiali, gli azzurri di Lippi e Cannavaro sono tra i favoriti. Poche settimane prima della massima competizione internazionale, il calcio italiano viene travolto dallo scandalo di Calciopoli. Il gruppo forgiato da Lippi riesce a reagire sul campo alle polemiche che imperversano sul nostro calcio. Io ho ricordato a tutti che è vero che questo gruppo però è stato in due anni... Siamo stati tutti insieme, calciatori, dirigenti, tutti, siamo stati capaci di costruire un gruppo talmente forte, talmente unito, talmente compatto, che nel momento in cui è successo quello che è successo, ha saputo trasformare tutto in energia positiva. Se dietro a questo periodo non ci fosse stato due anni nei quali siamo diventati così uniti, così compatti, probabilmente in questo casino generale, perdoni la parola, il gruppo si sarebbe sfaldato. E invece era diventato così forte che ha saputo trasformare tutto in energia. Fabio Cannavaro, che gioca in quel momento nella Juventus, squadra che viene messa dagli inquirenti nell'occhio del ciclone, trova il modo di rispondere sul campo alle critiche e alle polemiche. Sin dal girone iniziale, ancora una volta insieme a Nesta, erige un muro invalicabile. Io, per me la nazionale è stata qualcosa di straordinario, ma ho fatto tantissime partite, Under 21, prima squadra, ho vinto due dei titoli Under 21. Il campione secondo me è quello che al quale madre natura ha regalato delle doti particolari, ma non sono determinanti per le vittorie della propria squadra. I fuoriclasse invece, e non è detto, guardate bene, che il fuoriclasse sia per forza quello che fa i colpi di tacco, le rovesciate o i passaggi liftati, oppure calcia le punizioni all'incrocio dei pali. Il fuoriclasse è quello che con il suo rendimento dentro il campo e fuori dal campo è determinante per le vittorie della propria squadra. Perché un campione che non vince mai, ditemi che fuoriclasse è. Se un campione è così bravo da essere il più bravo di tutti, E ce ne sono magari 3 o 4 in una squadra, ma non si vince mai, a cosa serve? Dalla fase di eliminazione diretta, quando la sorte lo priva del suo partner Nesta, infortunato, Cannavaro alza ancora il suo livello di gioco. Agli ottavi, contro l'Australia, quando l'Italia rimane in 10 per l'espulsione di Materazzi. Contro l'Ucraina, partita dominata dagli azzurri, ma soprattutto nell'epica semifinale contro la Germania, in cui la prestazione del difensore azzurro è semplicemente impressionante. Cannavaro. Nesta. McBride, Beasley, attenzione, pericoloso, il contropiede, prova ad andare da Marcus Beasley, accelera ancora, giocatore del PSV, Cannavaro! Nedved, cerca un pallone in verticale per Milan Baroš, Cannavaro! E poi Materazzi, Rosinski, pallone interno di Rosinski, Cannavaro! Poi Rosenal che anticipa sulla tre quarti da Rosinski, Nedved prova a partire, Nedved ribatte Cannavaro! Pirlo! Prova Steiner ad andare, sul controllo c'è Cannavaro. Nella finale contro la Francia, Cannavaro e Lippi si giocano il mondiale e un posto nella storia. L'azzurro, ironia della sorte, raggiunge proprio nella partita contro i francesi le 100 presenze in nazionale, un traguardo incredibile. E anche contro i francesi, Fabio gioca una partita spettacolare, tanto da meritarsi il soprannome di Muro di Berlino. Borobei, che però è veloce, va via Borobei, buona traversione, Borobei, Cannavaro, che salva, Kalinichenko, cerca la palla dentro ancora, Mireschi, Cannavaro, Cannavaro. Nesmacni, ancora in verticale, Cannavaro, palla dentro, eccola che arriva, Podolski vuole girarsi, Cannavaro, vuole il traversone, c'è Klose all'interno dell'area di rigore, che la mette giù per Podolski, Cannavaro, Cannavaro, attivo scatto di Podolski, Cannavaro, rimessa laterale per la Germania, Gattuso, ancora loro, Cannavaro, Cannavaro, Klose prova ad andare via, Klose, Cannavaro, Cannavaro, tutti dentro l'area di rigore i saltatori, arriva il pallone, lo mette fuori, Cannavaro, poi ancora insiste Podolski, Cannavaro! Come è andata quella finale lo ricordiamo tutti. Rigore di Zidane, pareggio di Materazzi. Toni, Grosso, è pronto ad andare Pirlo, il secondo palo, pallone d'arrivo! Ma l'avevamo dimostrato subito, perché la squadra è viva, c'è, sta benissimo in campo. Sfruttare le palle da fermo, loro sono disattenti, non riescono a marcare bene come marchiamo noi. Bravissimo Marco Materazzi. Secondo gol del mondiale per Materazzi, 1-1, l'abbiamo ripresa subito, 19 minuti. Poi tante occasioni, soprattutto per i francesi. Il bunker azzurro che regge, le provocazioni di Materazzi a Zidane, la testata del fuoriclasse transalpino, l'espulsione, i calci di rigore. Fino al tiro dagli 11 metri di Grosso, da cui siamo partiti. Ed è gol! È finita! È finita! È finita! Bravi. È finita! Il cielo è azzurro! Sopra Berlino! Siamo campioni del mondo! L'Italia ha vinto. Ha sconfitto gli scetticismi e le polemiche della vigilia. I gufi ora salgono tutti sul carro del vincitore mentre risuonano le note della festa. I due uomini che più di tutti sono il simbolo di questa vittoria sono proprio loro, Cannavaro e Lippi, che il destino aveva visto insieme al momento del salto nel calcio che conta, quando Lippi per primo aveva investito sul giovane difensore ai tempi del Napoli. Ora i due alzano insieme la Coppa del Mondo e Fabio di lì a poco anche un pallone d'oro. È il momento più alto delle loro carriere intrecciate. Seguiranno momenti meno belli, ma quella sera a Berlino si siedono meritatamente sul trono del calcio mondiale. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.